E allora, 17-16 minuti, succedono cose, perché mentre appunto mandavamo questo brano che è un po' l'inno a Colombia, a se stessa, perché come vi abbiamo detto, poi la Colombia al suo interno ha tante anime, ma adesso finalmente Colombia è su una, no? E allora che succede? Succede che suona il telefono e ci chiama un ascoltatore che è appena tornato da Cali, un ascoltatore colombiano che ha incontrato la nostra radio e quindi ci vuole un po' raccontare. Sì, e racconto una cosa prima di salutarlo e metterci a parlare con lui. Ci ha chiamato in settimana, cioè racconto un'infidenza. Un aneddoto. Sì, ero qua io in radio, ci ha chiamato, molto interessato, aveva sentito che parlavamo della Colombia, voleva sapere giustamente le trasmissioni. Ho fatto riferimento alla trasmissione del Comitato Latinoamerica, Comitato Carlos Fonseca, e ovviamente alla Esquina del Sol, e lui ce l'abbiamo ora in diretta, ha chiamato, quindi lo possiamo salutare. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? Buonasera. Compañero, buenas tardes, buonasera a tutti. Allora, intanto veramente grazie per essere così sereno di prendere il telefono e dire voglio dire la mia, perché questa radio è anche questo. Io ci hai raccontato che tu sei appena tornato da Cali e quindi io vorrei proprio approfittare di quello che tu hai visto. Intanto, come abbiamo detto, Cali è stata il centro della resistenza, perché ormai direi che più che una lotta è diventata una resistenza contro un governo che ha molto dichiarato guerra al popolo. E allora non so se tu ci vuoi raccontare intanto le cose che hai visto, che ti sembra più importante. A Cali sono successe tante cose, è scesa la minga indigena, ha subito un attentato, la città è stata completamente isolata, non lo so, io almeno i parenti che ho mi dicono va come all'inizio se non peggio, e so che negli ultimi giorni addirittura è stato chiamato questo, diciamo, stato d'emergenza, direi che è la presenza dell'esercito in piazza, come se si stesse effettivamente in guerra. Cosa ci racconti tu? Ciao, grazie a te, veramente molto grato di essere qui, di sentirvi, di avere questa opportunità di poter anche dire la mia in altri spazi, no? E molto molto grato, perché da quando sono arrivato in Italia è molto stupito, no, che io, con gli amici che parlavo quando stavo in Colombia, con gli amici di qua dell'Italia, che qua non si sentiva da nessuna parte quello che sta succedendo nel mio paese, e poi mi trovo questa bellissima sorpresa, che non avevo dubbio che l'Onda Rosa ci sta raccontando comunque al popolo italiano quello che sta succedendo in Colombia, no? Quindi vi ringrazio di cuore, che la vostra sensibilità e il sostegno e l'appoggio alla lotta in Sud America, no? Sì, io sono appena tornato, sono arrivato l'altro ieri e quindi sono stato lì per altri motivi, sono dovuto andare, motivi familiari, in Colombia, e mi sono trovato con questa situazione che devo dire per prima volta nella storia della Colombia il popolo si solleva completamente tutti insieme, tutti i settori, tutte las barras bravas delle squadre del calcio, che è sempre stata per esempio una lotta grandissima fra di loro, invece questa volta tutti insieme sono scesi in piazza. Scusa, volevo dire, perché ecco, queste sono le piccole differenze che forse qui è difficile capire. Le tifoserie in Colombia tra di loro fanno erano famose per fare degli scontri che io non so se sì. Ci andremo tutti, anche essere tifosi da curva sud a Roma, non avete visto niente di quello, no, che nulla, significa sì. Essere tra due tifoserie diverse, insomma ci si spara sugli autobus, insomma è proprio un po' come appartenere a una fazione armata, insomma sì, il tifo degli ultras in Sud America tutta. In Sud America tutto, non solo in Colombia, no, a un altro livello di violenza purtroppo, e mi facevo un po' ridere, o mi stupiva questo che dice il compagno, il fatto degli ultras scendendo anche a protestare è molto significativo. Penso io e prendo il parametro dell'Argentina, perché insisto, il tifo degli ultras penso che sia molto simile, non sono i settori più progressisti della società, no. Gli ultras del calcio in Argentina, in Colombia, in Cile, in Brasile, comunque si fanno sono parte unite. Capisco io che fanno parte della società, e anche loro hanno deciso ovviamente di far parte del popolo che sta protestando per le strade, non so se sbaglio, compagno. Infatti no, assolutamente giusta la lettura, no, questa ho detto questa cosa come esempio, ovviamente sì, perché di quanto rivoluzionario è il momento, certo. Infatti, per farvi capire come veramente il popolo si è sollevato, pure le tifoserie, che è questo che state dicendo voi, è impressionante averle viste insieme, no? Quelli del derby, diciamo, della Colombia, e stavano insieme, cantando insieme, facendo festa insieme, lottando insieme, è stata una cosa veramente spettacolare. E l'America di Cali. Grande, questa è la mia squadra. Pure grande, la mia. America sempre. Vabbè, appunto. Meno male che ci abbiamo una coincidenza. No, sono quelli verdi, capito? E infatti, no, una cosa molto interessante, no, a livello sociale, che sta succedendo in Colombia, ecco. Poi quando ha iniziato la trasmissione vostra, avete fatto una lettura molto importante, una cosa che era quella che io volevo condividere, no? Allora, ci sta questa parte della popolazione civile, che diciamo che sono la classe bassa, la classe media, che è andata su, quindi che ha fatto un'escala, come si dice? Un'escalation economica, certo. Brava, ecco, e sono salite queste persone, sono tutte simpatizzanti dell'ultradestra, no? Del governo che sta in questo adesso. Momento questo Duque, che veramente io, perché siamo all'aire, non voglio dire parolacce, però veramente è una cosa che non si può più, e quindi queste persone sono parte di questo esercito paramilitare, come voi stavate dicendo prima nella vostra lettura, che si stanno rivoltando in contro del popolo, di noi che siamo lì semplicemente chiedendo un po' più di uguaglianza, un po' più di fraternità, di andare avanti, di opportunità per tutti quanti, no? Perché non va bene più così, e questa è la cosa importante che sta succedendo in Colombia. Per prima volta nella storia si è rivoltato il popolo, non era mai successo. Noi avevamo avuto 2 anni fa, c'è stata la rivolta nel novembre 2019, però che è durato un paio di giorni e basta. Adesso c'è, come hai detto tu, è la resistenza. Questo è fantastico, è bellissimo. Io ho partecipato a delle cose, stiamo facendo solo cultura, musica, teatro, cose molto belle, semplicemente per chiedere questa uguaglianza, questa opportunità per tutto il popolo. Posso dirti che per esempio uso te un po' per veramente avere conferma di quello che diciamo, perché credo che adesso le persone qui casomai cercano di andare ad informarsi. Allora, quello che sta succedendo negli ultimi giorni è per esempio l'apparizione di queste persone con la maglietta bianca. Okay. Allora, mentre prima era abbastanza chiaro che c'era il popolo in rivolta, di fronte i militari, l'esercito, l'ESMAD, che insomma sembrano quasi inumani da quanto sono armati, sembrano dei robot, e sicuramente insomma si vedeva che al lato della rivolta poi sicuramente succedeva altro, che è quello che succede sempre, c'è chi si regola i conti degli affari suoi approfittando del caos, no? Quello che succede sempre. Poi abbiamo visto anche che i manifestanti svelavano che, per esempio, penso al Palazzo di Giustizia di Tuluá, si è svelato che non è stato messo a fuoco dai manifestanti, ma c'era un interesse a dargli fuoco, perché lì sarebbero iniziati dei processi per degli aristocratici che hanno rubato delle terre, quindi adesso questi processi chiaramente sarà più difficile farli. Diciamo, si sono seguite delle cose. Ultimamente, insomma, nelle ultime settimane sono usciti questi personaggi con la maglietta bianca, che hanno chiesto di manifestare pacificamente per non essere vandali. Indubbiamente hanno detto delle parole quantomeno sospettose. Un paese che ha 300 desaparecidos in un mese non può stare in silenzio. Chi vuole manifestare in pace in silenzio? E abbiamo visto soprattutto che venivano quasi scortati dalle forze dell'ordine. Allora, quello che io ti chiedo, possiamo dire che questi bianchi vestiti di bianco, intendo, ma che spesso sono anche bianchi di pelle, e io me ne assumo la responsabilità di dire questa cosa, insomma. Etnicamente caucasici. Non è un caso, ecco, io faccio parte dei colonizzatori, me la prendo questa colpa. Sono un po' quella classe media che in un modo o nell'altro si è arricchita. Dico in un modo o nell'altro perché è sempre al limite tra la legalità e i tanti modi di arricchirsi in Colombia, che insomma qui in Europa abbiamo molto chiaro poi, ecco, no? Assolutamente. Ma allora, questa è una lettura perfetta di quello che sta succedendo. Questo, queste magliette bianche, che faccio un parentesi, perché io che sono di Cali, tu che la conosci, per noi è molto importante, una maglietta, fa parte della nostra cultura, che si chiama la guayabera, che è una maglietta bianca, no? E io ho già scritto sui social, sto invitando i miei amici a fare questa campagna dove la guayabera va nel più profondo angolo, oscuro angolo dell'armadio, non ce la metteremo mai più. È una cosa incontro delle nostre tradizioni, però è una maniera anche di fare resistenza, no? Io la guayabera la metto nel più profondo angolo del mio armadio, non me la metterò mai più, perché queste persone che si fanno chiamare, non so se avete letto, se avete visto le persone di bene, la gente di bien, sì. Pure là si chiamano così, grande. Una cosa orribile, queste persone, come hai detto, e io me la prendo pure la mia responsabilità, che hanno scalato con questa de livello sociale, economico più che altro, non tanto con la legalità. Infatti questa cosa è sempre il nostro cancro, che è il narcotraffico, e quindi questi qua sono l'esercito armato civile del narcotraffico. Quindi è stata una cosa veramente spaventosa, terribile, vedere per strada, mentre noi stavamo tranquilli con le bandiere cantando, persone che ci puntano i fucili di largo alcance, quindi armi da guerra, capito? Sì. No, sì, pistole, sì. Una cosa orribile. Armi belliche, insomma. Sì, certo, quindi possiamo dire che queste persone che sono scesi per strada con la guayabera rappresentano, diciamo, la parte non armata di quelli che dopo stanno sparando vestiti in civile, no? Insieme all'esercito, sì. Dico, sono parte, e addirittura, dimmi se sbaglio, stanno, come dici tu, hai spiegato, facendo un'appropriazione di un simbolo nazionale, perché ho visto pure questa discussione, dicevo io, che tra i nuovi attori sociali, nuovi perché si fanno vedere di più, partecipano di più, scendono alle città, ci stanno i popoli nativi, c'è pure quella discussione, no? Tra quelli che dicono non agli indigeni, non agli indios nelle nostre città, quindi c'è addirittura il problema del razzismo all'interno di questa protesta, o almeno all'interno della società colombiana, che viene ovviamente da anni, come in tutti i nostri paesi latinoamericani. Giusto, sì, no. Io sto parlando per esempio del movimento indigena, no, la Minga, che è stata una cosa spettacolare, sono scesi subito a fare a supportare il paro, è stata una cosa molto bella, finché questi delle camicie bianche hanno detto che non volevano più gli indigeni in città, no? Come e se poi... non fossero colombiani pure loro, o almeno appartenenti allo Stato cittadini, dovrebbero essere, forse se loro non si considerano, va bene, colombiani, almeno loro sono cittadini, dovrebbero essere cittadini dello Stato colombiano come qualsiasi altro. Certo, come no, poi fanno pure parte da... adesso stanno pure nella politica, quindi stanno formando il suo... partito per poter avere la sua voce nel congresso e tutto quanto. La cosa che è stata molto buffa, molto è che in mezzo di questo sciopero c'è stato una cosa della reina di bellezza, del concorso internazionale della bellezza, non mi ricordo come si chiama in italiano. Miss Colombia. Ma stato, mi sa che Miss Universo, non so che cosa. Capirai. Uno è Miss Universo e l'altra è Miss Mondo. Uno organizzato da Trump, credo Miss Universo. Ah, ecco. Mi mancano sti partiti. Davvero. E che si è svolto lì? È successo lì in Colombia, questo? No. No, non mi ricordo dove, però la cosa interessante è che la candidata colombiana, sì, l'hanno fatto uscire con un vestito indigena, bellissimo, no? Ecco. E in quel momento le camicie bianche postavano sui social che bel vestito, e quindi tutti noi gli rispondevamo: ma che cacchio volete? Ma prima li volete mandare fuori, adesso siete orgogliosi perché sta vestendo un vestito indigena. Certo, questo è l'opportunismo, no? Classico, che esatto, sappiamo, di facciata. L'ipocrisia. Io vorrei tornare un attimo però un po' più nel così nel concreto. Io non so se tu eri in viaggio così, però quindi figurati, casomai non credo neanche che sia stato facile viaggiare da Cali, perché immagino anche una situazione abbastanza di assedio, comunque di difficoltà. Molto difficile. Leggiamo oggi che, per esempio, la sindaca di Cali, no, il sindaco di Cali, mi pare, vorrebbe un po' aprire dei colloqui con tutta una serie di realtà che vengono riconosciute, quindi se, appunto la rappresentanza indigena della Minga, piuttosto che i giovani della prima linea che si sono, diciamo, riuniti in comitati di resistenza. Questo per fare in modo che la città forse torni a una vivibilità e ci si cominci a fare delle rivendicazioni comuni, è un punto interrogativo che metto, non lo so. Però te lo chiedo, tu pensi che questo, almeno dentro Cali, potrebbe essere un processo possibile? Io penso e lo spero. Allora, leggendo pure grandi pensatori della Colombia ultimamente, allora l'invito è a continuare con la resistenza, però senza, allora, perché si stanno bloccando tutta la città, no? Quindi c'è stata molta difficoltà per l'entrata degli alimenti, c'è stata, vabbè, questo è stato un altro episodio che è stato con la benzina, però secondo me è stata una mossa, e secondo tanti è stata una mossa dal governo per non farci muovere. Però la questione degli alimenti, per esempio, e soprattutto del personale della sanità, della salute, dei medici, infermieri, i malati, è stata affettata un po' per tutte queste, come si dice, blocchi che ci sono stati nella città. Quindi c'è stato un invito importante a cui io mi adiero profondamente, e a continuare con la resistenza, però come si dice, dando il passo alle cose di prima necessità, insomma. Ricordiamo che comunque c'è un'emergenza sanitaria, credo anche in questo senso tu stia parlando. Credo che solo nella giornata di ieri ci siano stati 27.000 casi, nuovi casi in Colombia, ecco, parliamo di questi numeri di COVID. Quindi no, credo che appunto si fa appello a far entrare i beni di prima necessità, ma anche quello che serve per l'emergenza sanitaria, che comunque è anche un'emergenza che comincia a diventare, tra quella del Covid e quella di tantissimi feriti e un continuo, insomma, i numeri da qualche settimana sono aumentati, insomma. Io sì, addirittura non gestiti della forma migliore, perché questa era una delle altre cose che si chiedeva o si, diciamo, rinfacciava al governo, il fatto che addirittura la pandemia non l'ha gestita per bene. Io volevo chiedergli nel frattempo al compagno, perché parlava di continuare con la resistenza, tu facevi riferimento, Marta, ai ragazzi della prima linea organizzati in diversi comitati, come sono interpellati ora da, sarebbe l'alcaldessa, la sindaca de Cali, per giustamente cominciare dei dialoghi forse istituzionali. Come vede questa, compagno, questa divisione che c'è, che esiste nella società colombiana? Da una parte la società, il popolo, le classi meno avvenenti che si organizzano, che provano a, per quello che ho letto, a portare avanti anche un'intersezionalità, le donne, i popoli originari, i giovani, e dall'altra parte questa società colombiana, no? Quelli che escono per strada con le guayaberas, questi che sparano anche per strada, questi che appartengono a quella borghesia o classe media benestante, che addirittura, e questo mi pare una cosa chiave, veramente importantissima, che si arricchisce di una forma illegale in Colombia. Quindi lì ci stanno pure degli interessi. Come vedi quel confronto, quella disputa sociale per poter portare avanti giustamente la lotta e la resistenza? Sì, allora io penso che questo è un tema molto complesso, perché il tema è che lo Stato e il governo sta legittimando queste manifestazioni di queste persone che stanno attaccando la popolazione civile. In Twitter il coronello dell'esercito colombiano ha scritto che se il 5 giugno non si riprendeva lo Stato, la tranquillità e la, diciamo, la normalità nel Stato colombiano, a me, prima, ovviamente, come prima città, se non succedeva questo entro il 5 giugno, ci sarebbe stata una una grande oleata di violenza da parte dello Stato, chiamando tutta la riserva, riservisti. E poi la cosa più grave che c'è stato in questo tweet di questo colonnello è che ha legittimato dicendo non solo la riserva, i veterani dell'esercito colombiano, ma anche tutta la popolazione civile che vuole fare parte di questa guerra. E quindi sta dicendo, lo Stato proprio sta dicendo, uscite fuori con le vostre armi e continuate a fare quello che state facendo. Sì. Io, allora, questo diciamo che è un... è un molto complesso poter arrivare a... Io sono contento che Ospina, che è il sindaco di Cali, vuole già mettersi seduto. Tanti sindaci della Colombia stanno dando la spalla al presidente Duque, al presidente, per chiamarlo tanto così, scusate, no? Sì, lo capisco. A questo Duque, quindi, le stanno cominciando a dare la spalla, perché quello che sta facendo Duque e Uribe e stanno facendo proprio una strategia militare, nel senso non dialogamo, non ci mettiamo seduti a arrivare a una soluzione, perché così continua la guerra e continua tutto sto massacro che state parlando voi. Io vorrei correggere un po' i numeri che avete detto, io ho sentito adesso che hai detto 300 no, spariti. Sì, infatti questi erano i numeri delle settimane scorse, io vedo che le cifre sono assolutamente lievitate, qui parliamo di, non lo so, io ho dei numeri della piattaforma Grita, che diciamo è un insieme di 3 coordinamenti di diritti umani, e lo prendo da SS Colombia, canale ufficiale Poder Migrante, tu poi casomai me li confermi. Quindi sono sicuramente 1248 vittime di violenza fisica da parte della polizia, 45 vittime di violenza omicida presunta da parte della polizia, 1650 detenzioni arbitrarie contro i manifestanti, 705 interventi violenti da parte della forza pubblica, 65 vittime di aggressioni che hanno perso un occhio, 187 casi di spari con arma da fuoco, di fuoco da parte della polizia, e 25 vittime denunciate di violenza sessuale da parte della forza pubblica. Direi che sono raddoppiati quantomeno i numeri da parte, esatto, rispetto sono raddoppiati. Stiamo arrivando più o meno a los desaparecidos, stiamo arrivando più o meno a 900 casi, no, di persone che non si sanno dove stanno. Poi io per un po', per anche la mia sicurezza, ho non più nel telefonino, per a me mi sono arrivati per esempio dei video nel Cauca, che c'è il fiume Cauca, che è molto conosciuto dalla nostra violenza del narcotraffico degli anni 80, perché lì buttavano tutti i corpi, los desaparecidos, dentro il fiume, e ci sono stati 2 settimane fa dei video dei camion della polizia buttando corpi. Ecco. Sì, l'abbiamo visto, era una cosa che raggelava, insomma, si vedeva proprio qualcuno nascosto che riprendeva questi video della polizia. Ah, l'hai visto? Che, sì, ecco, sì, l'ho visto. Che arrivava e proprio tiravano la gente nel fiume come se fossero sacchi. Vabbè. E insomma, lo stesso, io vedo che appunto adesso poi diamo queste dritte per chi vuole conoscere, per esempio io so che c'è il direttore de Canal 2 che è stato nominato eroico, perché mentre tutti i media mainstream continuano a parlare di un po' come ha fatto Duque la settimana scorsa, diciamo descarato de merda, è riuscito addirittura ad avere la faccia tosta ad andare a Cali, insomma è stato, l'ha passata praticamente in macchina, e quando scendeva la gente gli urlava di tutto, perché ormai vencer o morir, insomma mi sembra che anche il popolo lo dica, no? E quindi questo diciamo il popolo ha riconosciuto questo direttore dei Canal 2 come l'unico che effettivamente sta lì a rischiare la vita, lo dicevamo anche la settimana scorsa, chissà quanto dura, ancora dura, e sta lì. E qualche giorno fa, appunto, dove sono questi desaparecidos? Un quartiere segnalava che in un almacén, quindi in un magazzino, erano nascosti più di 420 ragazzi. Ma in un magazzino, come se voi al quartiere vostro sapete che quello è il magazzino del patata che dentro ci tiene i mobili di su nonna, no? Una cosa del genere. E di botto tutto il quartiere vede che però dal magazzino del patata escono la polizia, portano ragazzi, esce polizia, portano ragazzi e non escono mai civili. E quindi fanno un appello lì dentro ci sono 430 persone, chissà molte di queste denunciate tra i desaparecidos, sicuramente tanti corpi sono stati trovati nel Rio Cauca, come veramente a portarci indietro negli anni 80 e 90, no? A memoria di quella devastazione che ormai era quasi la norma, la vita sotto i cartelli era una cosa per cui non ci si parlava neanche tra parenti, l'omertà, il silenzio e la paura, quindi capisco anche... anzi capisco te, io lo capisco, ma chiedo agli altri anche di capire che cosa significa che tu sei qui ma cancelli comunque le cose dal telefono. Questo sì. Anche io chiedo ai miei compagni e compagni italiani di ragionare. La situazione è questa, che anche qui si levano le cose dal telefono. Perché? Perché stiamo parlando di una situazione che, se esplode, fa arrabbiare tutti, fa arrabbiare il primo mondo del capitale con tutte le multinazionali che gli tocca rifare i conti, no? Se la Colombia dovesse rinazionalizzare tutto quello che ha regalato alle imprese straniere, sarebbe uno dei paesi più ricchi del mondo, altro che Stati Uniti. Si incazzerebbe la camorra italiana, riga, e su questo noi veramente guardiamo per terra, facciamo silenzio, mettiamoci una mano sulla coscienza tutti quanti. Io lo dico ogni giovedì, non mi stancherò mai di diventarvi antipatica, non me ne frega niente, raga, qua è inutile che facciamo asello tonto, no? Perché se incazza la camorra, indovinate un po', perché siamo il continente del vizio e del privilegio, e ahimè la Colombia è stata ridotta, perché non è che la Colombia tutta la vita ha coltivato questa quantità di cocaina, capito? Non so quei quattro indigeni boliviani che lo facevano in maniera tradizionale, qui stiamo parlando di intere comunità di campesinos massacrati, obbligati a una coltivazione, quindi se noi non vogliamo ripetere quei bianchi che poi dicono se mettono la maglietta manicomio criminale, che io vi piegherei a pizze tutti quanti, io vi dico che cerchiamo di ragionare su questo, no? Sì. Almeno che la nostra decostruzione, quando scegliamo dei fai compagni, parta veramente da delle cose di base, perché ahimè questo è un problema. Io, uno dei primi presidi che ci sono stati a Piazza del Popolo sulla Colombia, ho intervistato un ragazzo giovanissimo che era veramente incazzatissimo e diceva: no no, io vivo in Europa da un sacco di anni, allora ve lo voglio dire, vogliamo parlare di legalizzare la cocaina, così che le classi alte che io vedo qua, gli imprenditori, gli attori, i cineasti, ci mettono il vizio, noi ci mettiamo i morti e noi non ne possiamo più. Appunto. E mi dispiace, ma no, gli illeciti del mondo sono la droga, le armi, e non possiamo non parlarne. Non va bene solo parlare delle armi, perché la morte non la portano solo le armi, ecco. Sì, dimostra l'incidenza, giustamente, il caso colombiano anche del primo mondo nei nostri paesi latinoamericani, particolarmente degli Stati Uniti. Purtroppo c'ha ovviamente la maggior quantità di base, per esempio militari, Colombia in Latinoamerica, e il problema del narcotraffico viene pure grazie al lavoro che ha fatto gli Stati Uniti nella storia. Io al compagno ovviamente lascerei i microfoni di Radio Onda Rosa aperti per sì, io ti direi, non necessario. Ti voglio più fare domande, sì, bravo. Ti vorrei dire di riempire questi microfoni con quello che pensi che tu sia importante, e poi ci scambiamo i contatti comunque. Sì, sì, prima di salutarti, compagno, quindi i microfoni radio Onda Rosa aperti per questo, per far sapere ciò che tu consideri necessario di far sapere. Ci senti? Ci senti ancora? Ecco. Mi sa che lo richiameremo. Meno no, male. Io spero che chiami lui, perché due cose. Queste cose a me mi fanno sì, impressione. No, adesso noi lo richiameremo, perché dicevo, lui è stato un ascoltatore di Radio Onda Rosa che ci ha chiamato nella settimana. Richiamaci intanto per se ci caso, sei. Per caso allora mi aveva trovato e io l'ho fatto sapere che dovevo ascoltare ovviamente la Schiena del Sol, oltre a Latinoamerica, la trasmissione del Comitato Fonseca. E meno male che siamo arrivati alla fine. Voglio chiarire, adesso ci ricontreremo, non è stato un atto di censura, eravamo, dicevo, per fortuna arrivati alla fine, abbiamo parlato tantissimo a lungo con lui e credo che ci ha fatto capire tante cose. A me mi risultava molto interessante questa situazione di quanto e come è divisa la società colombiana. Chi sono gli attori di queste? E perché da una parte ci stanno le donne femministe, le donne indigene, i giovani, i più emarginati, e perché dall'altra parte c'è quella borghesia, quella classe media benestante e arricchita, grazie sì ad affari non solo non del tutto legali, illegali direttamente per qualsiasi legge di uno Stato minimamente civilizzato o civile. E quindi questa è la questione, lì ci stanno gli interessi, come Marta diceva. Dopo, le decisioni che può prendere il popolo colombiano rispetto alle sue materie prime, rispetto alle sue risorse, può incidere sugli interessi altrui, i grandi interessi. Se la Colombia decidesse, e come riconosce che un paese produttore, sicuramente il maggior produttore di cocaina al mondo, se decidesse di legalizzare la cocaina perché considera che la guerra alle droghe ha provocato secondo Hiroshima, perché serve, non gli serve. Appunto, se il popolo colombiano avesse la maturità per decidere, per esempio, quello, come per decidere, come dicevi tu, nazionalizzare o restatizzare tutte le aziende e tutte le risorse, no? Quanti interessi si toccherebbero e quanti problemi, ma probabilmente questo varrebbe anche per un sacco di altri, cioè voglio dire, appunto, comunque il continente americano, mo leva gli Stati Uniti che ci interessano, però è tutta una ricchezza naturale pazzesca, no? Quindi in mano straniere, quindi i popoli non vedono niente di quello, direi. Dopo di se lo vedono nei musei, no? Appunto. Ci sta un museo pazzesco dove c'è l'oro precolombiano, una cosa che non ve lo potete neanche immaginare, no? E quella è solo quello che sta nel museo, immaginate che fosse là sotto, ma appunto viene mitizzato, come a dire, sta nel museo perché tanto voi morirete, sì, no, ti fanno pagare un biglietto per vedere i resti di ciò che ti hanno rubato, esatto, durante i secoli. Comunque io spero che sia una batteria che si scarica, io al compagno gli direi, ecco, io spero, vediamo, che sia lui. Vedi tu se ce l'abbiamo lì al compagno. Non so se sarà lui, perché ci stanno chiamando allo 06 491750, e almeno per salutarlo, sicuramente ora lo salutiamo, così chiudiamo per bene prima di ascoltare un po' di musica e dopo andare allo Stato del Cile a parlare del World Mapu e pure la repressione che si vive. L'accompagno, compagno, sta, eccolo, è di nuovo lui, mi ero spaventata, qui parliamo di Camorra, se sparisci, dai, non scherzo, non farci questi scherzi, ci sei. Dicevamo, microfoni di nuovo, prima di salutarti e lasciarti tranquillo, microfoni di Radio Onda Rossa aperti per te, per dire veramente quello che pensi che sia importante. Grazie, sì, grazie, no, di nuovo molto contento di questo spazio, ho tanta speranza di poter fare qualcosa da qua dall'Italia. Ho cominciato a sentire i miei compatrioti per cominciare pure noi a fare qualcosa, a farci sentire quelli che siamo fuori, e quindi questi spazi sono molto importanti per noi, per il popolo colombiano. Veramente dal cuore vi ringrazio tantissimo, è una questione che sento tanta allegria da una parte, ma tanto dolore, tanta tristezza dall'altra, no? Certo. L'allegria per il sollevamento finalmente del popolo colombiano in Sud America, il grande Cile ci ha fatto vedere delle cose, Argentina, ci sono dei popoli che vanno fuori in piazza, no? Colombia non aveva mai avuto questo sollevamento, e questo è una grande allegria, una grande speranza per poter prendere quello che ci appartiene a noi, al popolo, no? E tutta la ricchezza, prima lo dicevate voi, tutta la ricchezza che ha la nostra Colombia, che è un paese straordinario, di una calidez umana grandissima, dove ci sta tantissimo arte, tantissimi grandi pensatori, inventiva, ci sta delle cose bellissime, e siamo stati sempre molto ci hanno tagliato sempre le ali, no? Questi grandi poteri, questa destra che ci ha veramente rubato tutto e porta solo la morte. Compagnero, sì, eccomi. Grazie mille, veramente, per la... Sì, questo che tu dici lo capisco, ho sentito un sacco di voci rotte che partivano con un grosso entusiasmo e poi si rompevano in pianto a pensare qual è stato qual è il prezzo di tutto questo. Quello che ho conosciuto della Colombia era un sorriso anche quando raccontava i momenti drammatici, era una dignità de pueblo incredibile, e quindi capisco molto questo tuo discorso di estrema allegria e grandissimo dolore, vorrei piangere di gioia ma piangere anche di amarezza, no? Giusto, giusto. Io spero che questi morti che sono stati in questi mesi non siano in vano. Adesso si ho le lacrime negli occhi. Perché non è giusto, non è giusto, questi ragazzi giovani che l'unica cosa che vogliono è un'opportunità e non più voglio violenza. Quello che noi vogliamo in Colombia, che, non, che finisca la violenza. Siamo un popolo bellissimo. Siete un popolo bellissimo, è vero. E spero che questi morti non siano in vano, ecco, e che per prima volta ci ascoltino.